La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buonasera e ben ritrovati alla prima volta. L'ospite di oggi è Luigi Spagnol, un nome che forse non a tutti suonerà familiare, eppure Spagnol è l'uomo che ha deciso di pubblicare in Italia Harry Potter in tempi non sospetti, cioè quando ancora non era per nulla un caso editoriale. Spagnol, milanese, classe 1961, lavora dagli anni 80 con Salani Editori, ma molto prima è iniziata la sua avventura nel campo, questo nonostante gli esordi al liceo classico sembravano non promettere nulla di buono. Insomma, una prima volta che inizia proprio così. Ma io ho fatto il liceo classico con direi notevole insuccesso. Perché dici? Ma andava malissimo. C'erano però delle materie in cui insomma si divertiva, le piacevano, o è proprio stato un momento grigio? Abbastanza grigio, devo dire, sì. E questo secondo lei perché? Da cosa nasceva? Ma probabilmente un po' dalla mia inquietudine, da fatto che trovavo poco rapporto tra la scuola e i miei interessi reali, compresi quelli che tutto sommato al liceo classico avrebbero dovuto essere incoraggiati. All'epoca mi interessava molto la musica e l'arte, che sono due cose che poi ho proseguito, e facevo fatica a trovare un senso. E quindi il classico è stato un po' in qualche modo scelto dalla sua famiglia perché... Sì, probabilmente sì. Non credo che fosse un problema del classico, Credo che fosse un problema della scuola di quegli anni, che un po' vedo che non è neanche del tutto risolto. Cioè è molto difficile per un ragazzo, anche con un ragazzo che ha interessi culturali, trovare un nesso tra quello che si studia a scuola. Normalmente uno a cui piacciono i libri dovrebbe fare il classico, si pensa, però poi al classico non si legge mai nessun libro contemporaneo, per esempio. Quindi secondo lei anche forse... una mancanza anche, come dire, di leggerezza. Io noto anche parlando con i ragazzi che c'è un'aspettativa molto alta rispetto a quello che potrebbe essere il futuro, ma poca leggerezza rispetto al presente. Sì, c'è poca leggerezza sicuramente, quello che vedo è c'è un po' poca attenzione agli interessi reali dei ragazzi, non solo dei ragazzi, del mondo moderno. Cioè, io sono il primo a dire che la scuola deve fornire delle basi e quindi è anche giusto fare Petrarca, perché poi se non fa scuola non lo farà mai più probabilmente. Quindi è anche giusto, cioè non è che la scuola deve prendere la classifica dei bestseller e insegnare quello, ci mancherebbe altro. Però anche passare 5 anni in cui tutto quello di cui si parla in letteratura è come minimo lontano un secolo, non ne capisco la necessità, perché ci sono anche delle cose contemporanee che vale la pena di studiare. Cioè, nel mio liceo proprio un romanzo pubblicato negli ultimi 20 anni non se ne parlava proprio, cioè, si arrivava a Pirandello. Sì, questo è successo anche a me, per cui credo che succeda ancora oggi probabilmente. Sì. E infatti una delle questo domande... Questo vale un po' per tutte le materie. Esatto. Per l'italiano. Esatto. Si fa tanto inglese, i ragazzi ormai sanno tutti parlare inglese. Poi vanno a scuola e devono solo studiare regole e nessuna applicazione della lingua. Per carità, la scuola è lì per insegnare le regole, per insegnare la grammatica, perché se no uno se la studia sul computer. Però io trovo che ci sia un eccesso di separazione tra la scuola e il mondo reale. E poi lei in qualche modo rappresenta un po' un osservatore speciale, nel senso che andando in giro per festival letterari ha proprio modo di incontrare gli italiani, soprattutto i giovani italiani, no? In particolare lei incontra persone che leggono tendenzialmente. Ecco, sì, noi incontriamo una fetta della popolazione un po' elitaria, che si sa che in Italia legge circa la metà della popolazione, ma leggere significa leggere un libro all'anno. Quindi i frequentatori di saloni, di fiere, così sono i festival, che naturalmente scaldano il cuore perché c'è un grande entusiasmo, però sono una porzione risicata della nostra società. Cioè lei si fa un'idea del paese stando in certi contesti, poi va al supermercato e si scontra con un altro. Sì, io normalmente vado a fare la spesa in un supermercato di provincia, vado a vedere il reparto dei libri, ci sono sempre solo io. Anche nel supermercato dove... Ecco, cosa ne pensa ad esempio dei libri nel supermercato? Penso che sia un bene che ci siano anche per il contesto in cui viviamo. Cioè, io ho una casa nel comune di Stradella, in Oltrepò, e i libri sono quasi solo lì. Quindi c'è almeno una risorsa, c'è, perché ormai le librerie sono al collasso. Non c'è una vera libreria, c'è una cartolibreria e poi ci sono cartolibreria edicola e poi c'è il supermercato. Quindi meno male. Ho questa impressione che poi dico sempre anche agli amici che lavorano in GDO, che cioè in grande distribuzione, che la loro offerta mi fa pensare che abbiano in mente un lettore popolare, che secondo loro è quello che frequenta il supermercato. Però poi quel lettore popolare non c'è in quel reparto lì. Non è rappresentato, dice. No, non ci va proprio, non va proprio a vedere i libri. E allora forse sarebbe più saggio mettere anche dei libri, diciamo, tra virgolette, un po' più alti, perché appunto io se trovo un bel libro al supermercato lo compro lì, non avendo altre risorse. Dovrebbe interessare un altro tipo di persona che però non ci va. E poi questo è un po' illusorio. E questo in qualche modo fa il paio con quello che lei ha detto qualche tempo fa, quando ha detto la scarsa abitudine alla lettura in Italia non è una scusa per abbassare il livello dell'editoria. Ecco, questa... Sì. Questa è una frase che tra l'altro l'ho vista ripresa anche su alcuni social network, insomma è diventata un po' una frase da guru. E... Però funziona, diciamo, sulla carta, nel senso teoricamente, ma nella pratica, come dice lei stesso, si fa fatica. Insomma. Si fa fatica, però poi ci si riesce, perché si guardano anche le classifiche, ci sono dei libri molto impegnativi che vendono bene, perché poi appunto siamo un popolo che legge poco in percentuale, però siamo tanti, quindi ci sono, adesso non so esattamente le cifre, 27-28 milioni di persone che leggono almeno un libro all'anno, è un bel mercato. Se si pensa che forse tutta la Scandinavia non ci arriva, cioè gli svedesi sono 10 milioni in tutto. E quindi su 28 milioni ce n'è di gente che ha voglia di leggere un bel libro, anche impegnativo. Non deve essere una scusa per fare solo, non che si faccia, però c'è qualcuno che un po' la chiede. Non può essere una scusa per fare solo editoria cosiddetta popolare o di basso livello, perché appunto, non so, io... Per dire, una mia passione è la musica classica, pubblico qualche libro di musica classica e di solito la reazione è che la musica classica è difficile, non si riesce a vendere, così. Su 28 milioni di lettori, 10.000-20.000 che sono interessati a musica classica, secondo me ci sono. E poi vanno rispettati, insomma. Vanno rispettati, devo dire che... Infatti noi le vendiamo bene questi libri. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Roma-Napoli, in auto con un'amica. Io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto. Grazie alla digital radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in digital radio. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Nuovo insieme per parlare di storie e di prime volte, oggi in particolare l'ospite Luigi Spagnolo, un uomo che pubblica storie per ragazzi essendo presidente di Salani Editori. In effetti quello dell'editoria per ragazzi è un segmento molto studiato, perché nonostante il nostro sia un paese che invecchia sempre più, un paese in cui si fanno sempre meno figli e in cui i lettori calano, quello dei libri per ragazzi resta un settore in crescita. Anche nel 2015, infatti, il segmento dell'editoria che ha funzionato meglio è stato quello dedicato all'infanzia e all'adolescenza. In Italia, su 60 milioni di abitanti, circa 8 milioni e mezzo sono bambini, tra loro 5 milioni hanno tra i 6 e i 14 anni. E pare proprio quest'ultimo il segmento più interessante per la filiera editoriale italiana degli ultimi anni, che genera il 17,4% del valore dell'intero mercato. Non solo, quello dell'editoria giovanile è il settore italiano più venduto all'estero, insomma un successo su tutti i fronti. Ma che cosa ha determinato questo successo? Secondo molti addetti al settore, il fatto che ci sia molta ricerca di qualità e molta libertà di sperimentazione legata a una bassa incidenza del marketing nelle scelte editoriali. Almeno così la pensa Luigi Spagnol, presidente di Salani Editori. È curiosa la cosa, perché è un po' ambivalente. Da una parte c'è sicuramente un desiderio, che è proprio nella natura umana, di omologazione da parte dei ragazzi, no? Quindi se c'è un libro che funziona lo vogliono leggere tutti. È così per Harry Potter, il diario della schiappa. Sono quei fenomeni, sono soprattutto tra i ragazzi. Però dall'altra parte c'è anche un'autonomia di giudizio. A me è capitato di pubblicare dei libri che da soli si sono fatti strada, semplicemente perché erano dei bei libri, senza proprio aiuto del marketing, nemmeno di stampa, di recensioni. E questo succede più tra i ragazzi che tra gli adulti. E questo secondo lei perché? Perché sono più capaci anche di comunicare tra loro in maniera... Probabilmente sì, perché poi sono meno... Probabilmente nessun ragazzo legge per dire che ha letto un libro, per farsi vedere che ha letto un libro, perché... No? Sì. Ecco, in un certo senso c'è più autonomia. Da un lato, che sì, in effetti è uno strano contrasto che invece col desiderio di omologazione, appartenenza. Senta, le volevo chiedere questa cosa, visto che ha tirato fuori Harry Potter, ormai lo sanno tutti, insomma lei è la persona che ha deciso di pubblicare Harry Potter, sì, in Italia. Intanto ho letto tempo fa questo, avevo letto una sua intervista in cui ha raccontato proprio il momento in cui si è ritrovato il manoscritto tra le mani e ha scelto, sì, di sì, pubblicarlo. No, lei in quel momento ha detto: questo è un classicone, un grande classico, io lo voglio, sì, pubblicare. Ha scelto, sì, proprio così di impeto. Ecco, secondo, sì, me quello deve essere stato un momento esaltante, bellissimo, deve essere forse uno dei momenti più belli del fare editoria. Sì, intanto voglio dire, io ho deciso di pubblicare, non ne ho contati, ma sono un centinaio di libri, cioè proprio al di là dei libri che si pubblicano perché si conosce già l'autore, perché fanno parte di un ciclo, di eccetera, forse autori nuovi deciderò di pubblicarne un centinaio all'anno, quindi insomma, tra questi per fortuna c'è stato anche Harry Potter, ma certo che... Quando capita di trovare un libro su cui non si hanno dubbi, ecco, quello è bellissimo. E quello è stato un momento. Cioè, diciamo che nella maggioranza dei casi uno si legge un libro, si pensa, si dice: ma questi elementi e questi altri si può fare così, si può fare. Ci sono rari casi in cui uno si dimentica di essere un editore e legge, perché è totalmente rapito dalla lettura. Che meraviglia. E quelli sono pochi. E quando le è successo ultimamente? Ah, ultimamente. Non è successo. così no. Ma... Sì. In realtà è successo, sempre per rimanere per i ragazzi, però non è andata... così, nel senso che il libro avevamo già un contratto, avevamo già deciso di pubblicarlo e non era tutta quella poesia, diciamo. Non era quella la questione, ecco, però mi è successo con Olga di Carta lo stesso. Lei avrebbe voluto diventare uno scrittore, diventato editore perché avrebbe voluto c'è questa cosa o no, secondo lei, in chi si occupa di libri? Ma forse qualcuno, io avrei voluto diventare un pittore o un compositore, quindi no. E la coltiva ancora questa passione o l'ha abbandonata? Quella della musica sì. Invece volevo chiederle se aveva letto Il mondo secondo Garp. No. Perché lì c'è una figura di editore particolare. Che... No, anche terribile in alcuni tratti, spietatissimo, per cui volevo farle poi una domanda su questo. Ecco, c'è una cosa che mi stupisce, devo dire, perché io conosco ovviamente tanti editori, conosco anche tanti scrittori, conosco tantissimi scrittori che sono molto legati ai loro editori e che li rispettano e che sono amici e che ne dicono ogni bene possibile. Però stranamente l'editore in letteratura è sempre rappresentato malissimo. Come gli avvocati. Come gli avvocati, sì, forse. So, mi vengono in mente, cioè, l'editore di Care, della verità sul caso Richebert, è un poco di buono. Nel secondo romanzo di Zafon è il diavolo addirittura, se non sbaglio, l'editore. E non so, cioè, si sembra che siamo molto affezionati a questo mito dell'editore senza scrupoli, pirata, ignorante. Ce n'è, per carità, non è che non ce ne siano, però ce n'è anche di molto diversi. Sì, beh, immagino. No, nel caso specifico che le ho citato è una persona che peggiora nel tempo, diciamo, per cui parte bene. Questo posso capire. Quello che fa l'editore è promuovere la lettura. Gli autori si rivolgono a noi per essere promossi. Quindi credo che possiamo solo essere più coinvolti di quanto siamo. Noto ogni tanto un po' di, forse anche un po' di timidezza da parte proprio degli editori in generale nel presentarsi, no? Nel parlare con le istituzioni, con la scuola, con i ministri, con come se ci fosse qualcuno che ne sa più di noi di promozione della lettura. No, è il nostro lavoro, i professionisti della promozione della lettura sono gli editori, secondo me. L'altra cosa che io ritengo fondamentale, ho letto, mi pare l'anno scorso, uno studio fatto in America in cui si diceva che i ragazzi, il 95% dei ragazzi, legge più volentieri un libro che hanno scelto da soli. Che detto così sembra un dato ovvio, però poi metterlo in pratica non è così ovvio. Metterlo in pratica significa mettere a disposizione dei ragazzi una scelta di libri ampia, in modo che possano scegliere da soli. E poi significa soprattutto accettare la loro scelta. Io credo che queste siano le cose più importanti da fare. Credo che questa sia proprio la regola che vale in assoluto per la vita. Cioè, nel senso, quando hai un figlio devi proprio accettare, cioè se vuoi dargli una forma di fiducia, sì, di indipendenza, probabilmente devi farlo probabilmente, con la musica, con... In tutti questi anni mi è sempre capitato, ma di continuo, genitori che dicono mio figlio non legge, legge soltanto Piccoli brividi o Il diario di una schiappa. E quindi legge. Ci sembra che il libro che si divertono a leggere non vale. Anna, come sono tante! È tutto, la prima volta termina qui. Potete riascoltarci sul sito di Radio 24 oppure venite a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio 24 la prima volta. Buona serata a tutti da Cristina Carpinelli.